America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Filadelfia, la Convention Democratica, la terza serata della Convention Democratica. Mario Platero. Sentiamo Barack Obama nel momento, come dire, più emozionante della serata di ieri sera. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. America, you've vindicated that hope these past eight years. Avete sentito la folla scatenata, Obama che dice: questa notte vi chiedo di fare per Hillary quello che avete fatto per me, di sostenerla, di aiutarla, di sorreggere la sua speranza nel futuro. Era di voi che parlavo 12 anni fa quando parlavo di speranza, siete stati voi a sorreggere la mia speranza nel futuro anche quando le prospettive erano buie, anche quando la strada si apriva lunga di fronte a noi, la speranza di fronte alle difficoltà, la speranza di fronte alle incertezze, l'audacia della speranza. America, voi avete giustificato quella speranza in questi anni passati. Ecco, come avete sentito, un discorso quasi poetico. C'è stato il passaggio del testimone della speranza, anzi dell'audacia della speranza, come ha detto Barack Obama, tra un presidente in uscita, appunto Obama, nostalgico, commosso, che salutava il suo pubblico, e Hillary Clinton, la prima donna a chiedere al paese di poter accedere all'ufficio Oval per guidare al paese. Questi due primati da soli, insomma il primo afroamericano che arriva all'ufficio Oval, la prima donna che potrebbe arrivarci, rappresentano il cammino verso un'unione più perfetta, come ci hanno chiesto di fare i nostri padri fondatori qui a Filadelfia, ha detto ancora Obama. In questa staffetta, nell'abbraccio finale tra Barack Obama e Hillary Clinton sul palco che abbiamo visto poi alla fine della serata, c'è tutto il messaggio d'insieme di questa terza puntata di una convention democratica, devo dire, molto energica, molto attiva, molto interessante. I quattro oratori principali nell'ordine sono stati il vicepresidente Joe Biden, Mike Bloomberg, l'ex sindaco di New York, il nuovo candidato alla vicepresidenza Tim Kaine e per il gran finale appunto Barack Obama. Insieme, chi in un modo, chi in un altro, hanno cercato di esorcizzare la sindrome della paura che, come ha detto il nuovo Obama, cerca di instillare Donald Trump negli elettori. Poi l'attacco. Trump è stato paragonato a un perdente che rinnega i valori centrali dell'eccezionalismo americano. L'apertura, la generosità, vuole chiudere le frontiere, vuole rinnegare l'apertura nei confronti di tutte le religioni. Ecco, questo è scritto nella Costituzione, nella Dichiarazione di Indipendenza, e qui di nuovo Obama ne parla. Sentiamo. Our power comes from those immortal declarations. First put to paper right here in Philadelphia all those years ago. Sono valori, ha detto Obama, che con Trump rischiano di essere dimenticati. Non so quanto la retorica della paura possa conquistare voti, ma so che è una retorica che non appartiene all'America. Siamo un paese che si rialza sempre, che si è rialzato dopo la più grave crisi finanziaria in un secolo. Poi Obama ha dato un quadro di come l'economia sia migliorata, si è parlato parecchio ieri di economia, ovviamente un tema sempre centrale nelle elezioni americane. Ma veniamo a Mike Bloomberg, perché anche lui ha fatto un intervento davvero alquanto straordinario. Donald Trump has left behind a well documented record of bankruptcies and thousands of lawsuits and angry stockholders and contractors who feel cheated and disillusioned customers who feel they've been ripped off. Trump says he wants to run the nation like he's running his business? God help us! Ecco, l'avete sentito, l'ex sindaco di New York, vero imprenditore, molti non considerano Trump un vero grande imprenditore. Beh, Bloomberg ha rivoluzionato il mondo dei media, della finanza a livello globale, un patrimonio di oltre 40 miliardi di dollari contro quello che viene calcolato un patrimonio in circa un miliardo di dollari di Donald Trump. Intanto ha detto di non essere né democratico né repubblicano, di non essere sempre d'accordo con Hillary Clinton, ma di aver deciso di votare per lei per evitare che l'America potesse vedere da qui ai prossimi anni i suoi valori travolti. Poi da newyorkese ha attaccato Trump. Devo dire un attacco piuttosto duro. Dice: noi newyorkesi, i con, i truffatori, diciamo, li riconosciamo immediatamente. Durante la sua carriera Trump ha lasciato dietro di sé un record ben documentato di fallimenti, migliaia di cause legali, azionisti arrabbiati, imprenditori che si sentono presi in giro, clienti che sono stati derubati. Trump dice di voler gestire gli Stati Uniti così come ha condotto le sue attività imprenditoriali. Che Dio ci aiuti. E poi ha parlato di storia, anche lui ha affrontato il tema della grinta americana. Il nostro paese, ha detto, ha avuto le sue sfide gravi, difficili, ma non si è mai ritirato per la paura di perderle. Non nel 1776, nel 1863, nelle due guerre mondiali, non durante la Grande Depressione o a Selma o a Stonewall e non nell'attacco dell'11 settembre. Certo, ha detto, non dobbiamo cominciare ora. Lo stesso con parole diverse hanno detto Joe Biden, il candidato alla vicepresidenza Tim Kaine. Kaine, senatore della Virginia, ha fatto un discorso onesto, non travolgente, efficace nella battuta. Per esempio a un certo punto dice: ma che uomo è? Un uomo che sembra derivare grande piacere dalla frase dura, sempre umiliante, che pronuncia nel suo social visivo. Dice: sei licenziato, you are fired. Invece, devo dire, ha colpito molto il discorso di Joe Biden, il vicepresidente. È stato il discorso più appassionato forse di tutta la convention. Un discorso commosso, ha parlato del figlio Beau, morto di cancro nel 2015. Un discorso determinato da grande statista, finalizzato a due obiettivi: far capire che la percezione comune di Hillary Clinton è sbagliata, come è sbagliata la percezione che molti possono avere di Donald Trump. E quando si parla di Casa Bianca, ha detto, non si parla di reality show, ma parliamo di realtà, punto e basta. Trump corre di dirlo, beh, non si aiuta molto. Sentiamo cosa ha detto ieri. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. Russia, se stai ascoltando, spero che tu possa recuperare le oltre 30,000 email mancanti. La stampa ti ricompenserà. Beh, devo dire, un'uscita piuttosto bizzarra, piuttosto strana, che un candidato chiedesse apertamente a una potenza straniera, peggio una superpotenza come la Russia, in questo momento nemica per via dell'invasione dell'Ucraina, di immischiarsi nella politica interna americana, non era mai successo. Non si fa, non si dice. Ma devo dire che Trump è maestro nel capitalizzare sulla provocazione. E per chi avesse dubbi su questa interpretazione, può vedere il video su YouTube. Infine l'elogio ovviamente di Hillary, che è la persona più preparata oggi per guidare l'America, ha detto ancora Biden. I messaggi a favore della ex First Lady sono stati chiarissimi. Obama per esempio ha detto che Hillary potrà aver commesso degli errori. Gli errori sono inevitabili quando si deve provare qualcosa di nuovo. A questo punto però gli elogi degli altri arriveranno fino a un certo punto. Dal podio questa notte parlerà Hillary, dovrà chiudere la convention non solo con un chiaro passaggio verso il centro, ma con un messaggio energico, trasparente e persino simpatico, se gli riuscirà, visto che d'ora in avanti la possibilità di fare storia fino in fondo è soltanto nelle sue mani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americaradio4.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi che non potevamo ascoltare dimostrazioni di amicizia più vera, più profonda nei confronti di Hillary Clinton. Gli oratori, come vi ho detto dell'altra sera, l'hanno appoggiata, sostenuta, hanno attaccato duramente il suo rivale. Certamente Hillary ha degli amici che le vogliono bene. Dunque, di James Taylor, You've Got a Friend. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am, I'll come running. Winter, spring, summer, or fall, and all you got to do is call. and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Da Filadelfia è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.